più o meno direi che funziona così, funziona tutto bene. Oddio, ora funziona meglio visto che visto che dicevo, visto che abbiamo messo un altro ingresso, un'altra uscita, un'altra periferica, l'altra applicazione, flusso di corrente e non di pensiero. Perché noi qui abbiamo DHCP, no, questo non riusciamo a stare e funziona, va bene, senza titolo, non ce ne fate niente. E allora mettiamo tutto come era prima. Va bene, applicazioni, audio e video, no, mix, no, pulse, no, quadlibet, sì, anche se secondo me è un programma un po' di merda, però è l'unico che siamo ancora riusciti, a me questa poi no, poi chiunque tu sia, cioè se vuoi ti do il mio numero di telefono, non lo so, ti vai a sentire, vediamo se ci puoi dare una mano, se hai musica interessante da trasmettere, Fantiba. Se no, se vuoi, puoi aggiungere Radio Matria, chiocciola qualche cosa, Radio Matria, chiocciola hotmail.com come tuo contatto MSN. Se no, te la fai scaramare nel culo. Perché di questi tempi si sta peggio del 40? Si dice che il fascismo sia finito già da tempo. Io penso ai partigiani, quelli quando fischia il vento. Quando fischia il vento, urla forte la bufera. Ma vedo allontanarsi sempre più la primavera in una sera nera, senza stelle e luna piena. Soltanto perché dei coglioni si rispecchiano nel duce. Paragone atroce, strappo che non cuce. Merda della storia, feccia che si riproduce. E passa il tempo, cambiano le stagioni. Qui va sempre peggio Mussolini o Berlusconi. Cosa ne sarà del nostro domani? Anziché lottare alzeremo le mani. E voi tranquilli a casa che mangiate e bevete. Vi ruberanno l'anima e non ve ne accorgerete. Sta tornando il buio anche se non lo vedete. La storia si ripete, sì, la storia si ripete. Picciotte che sentite, picciotte che capite. Picciotte che avanzate con la testa ragionate. A gente più potente mancia sopra i nostri dite. Fate come hanno la giovarrate se ve ne adunate. Vecchi tanto sulle gente che per campare la testa abbassano. Con le prove umano zitta e muta la fossa scappa. E pensa a me faccio una magia messa ora. Tutta la settima generazione pigliate per fissa la scuola sabato. Io pigliate poco la televisione. È un messaggio subliminale, nato parrucca che storisci la ricchi. Mentre cresce vistosamente la differenza tra poveri e ricchi. E se andare avanti ti fa paura. Sta musica come cura, lotta sociale come cultura. Contro la dittatura. E passa il tempo, cambiano le stagioni. Qui va sempre peggio Mussolini o Berlusconi. Cosa ne sarà del nostro domani? Se anziché lottare alzeremo le mani. E voi tranquilli a casa che mangiate e bevete. Vi ruberanno l'anima e non ve ne accorgerete. Sta tornando il buio anche se non lo vedete. La storia si ripete, sì. La storia si ripete inesorabilmente. Ancora distinzioni di classe tra la gente. La storia si ripete, lo Stato è troppo forte. E se lo sfideremo pagheremo con la morte. E canto con la rabbia e canto con il pianto di tutti gli operai che sono morti per l'amianto. Per tutti i deceduti sul posto di lavoro qua. Senti la gente strana grida fuori dal coro. E dai fratelli cervi a tutti i partigiani. Da Davide Cesare a Carlo Giuliani. Fascia e polizia, binomio disgustante. L'antifascismo vero è solo quello militante. Die Schreisfeld und No. Strangers from Fear and Instant Fight. Yes. Und die Scrollfan Jakob. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines got running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. L'antecedente storico dell'uso copione è rappresentato dall'antico usus, istituto di diritto romano disciplinato già dalla legge della dodicesime tavole, non so perché dodicesime, non ho visto che non ho fatto diritto romano, però vabbè questo. E esso consisteva nell'esercizio concreto di un potere che, perdurando per un biennio o per un singolo anno, portava all'acquisto definitivo del potere stesso. Tramite usus, ad esempio, era possibile acquistare il potere di manus sulla donna, cioè che la picchiavi, cioè non... Vediamo cosa vuol dire manus sulla donna. In seguito i giuristi romani crearono il differente istituto dell'usucapio, discendente dall'usus, che a differenza di quest'ultimo portava solo all'acquisto della proprietà in base al possessio di una cosa. Potevano pure essere oggetto di usucapio sia le cose mobili sia le cose immobili, purché si trattasse sempre di res corporalis. che non sappiamo cosa sia. Ne erano escluse per antica disposizione risalente alle XII tavole le res furtive, cioè le re furtive, che poi è stato un problema. Cose che erano state rubate, infatti, al legittimo proprietario. E le res vi possesse, che le cose sottratte al legittimo possessore con violenza. La usu capione poteva essere finta. Sì, finta. Tramite una actio pubbliciana, sappiamo bene cosa. Primo documento noto in lingua volgare italiana è costituito dal Placiti Cassinesi, che sono delle testimonianze in una disputa di uso capione di un terreno. Nella disciplina italiana può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore, come per esempio il cervello di Gasparri e il suo corpo. Al protrarsi di questa situazione, la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. È l'usucapione, prescrizione acquisitiva, l'acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo. Articoli 1158. Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno 20 anni. Trascorso il periodo, il giudice adito accetta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà. È irrilevante agli effetti dell'usucapione che il possesso sia di buona o di mala fede. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l'usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole, cioè se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l'usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità. In sostanza, se vi occupate casa, vi dovete autodenunciare. È cruciale però distinguere la detenzione dal possesso. Nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in custodia. Ci si comporta, cioè, come se il possesso fosse altrui e ciò non dà inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio, un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso vero e proprio. Seguendo il citato esempio, solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsene, per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante, avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione. Il possesso ad usucapionem deve essere, per articolo 1158, un possesso continuato, cioè se lo presti a qualcun altro sono cazzito. Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue corporet animo, ma si conserva solo animo. Ora, so voi, ma io non ci ho capito niente. Per l'interruzione del processo dell'usucapionem, l'articolo 1165, quindi 10, no, 8 articoli dopo, si richiama le norme sull'interruzione della prescrizione. Scusate. In quanto compatibili con l'usucapione, perciò l'usucapione interrotta dall'atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui, non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario, cioè se lo fai fuori, cioè non lo denunci ma gli dici sei uno stronzo. In realtà lo stronzo sei tu perché in culo la pigli. L'usucapione, se ha posseduto l'usucapiente, scusate, se ha posseduto la cosa come libera da pesi e diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena, usucapio libertatis. E i diritti sulla cosa costituiti dall'antico proprietario non sono opponibili all'usucapiente neppure se trascritti. Ma se la cosa è stata posseduta come gravata da diritti altrui, questo sopravvive all'usucapione. E non saprei. Il fondamento dell'uso capione è un'esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni. Una consolidata situazione di fatto, come il possesso di un bene protratto per un certo tempo, è di per sé considerata modo di acquisto della proprietà, in sostanza la casa è di chi l'abita. Chi compra sa di comprare bene se compra da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla. Perché siamo tutti un po' lenti, infatti non sto capendo, figuriamoci, uso capendo qualcosa. La proprietà in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare, se si dovesse provare di aver acquistato la proprietà a titolo derivativo. Occorrerebbe provare di aver validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, che poi a sua volta aveva acquistato da un valido proprietario, e così via. Il giurista al riguardo parla di probatio diabolica. Probabilmente diabolico era in realtà il giurista, ma vabbè. Gli effetti giuridici dell'usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico. Gli effetti giuridici si producono come conseguenza di un fatto giuridico. Giustamente, azione corrisponde a reazione, ad azione giudiziaria corrisponde a reazione giudiziaria, uguale o contraria. La sentenza che li accerta ha valore solo dichiarativo. Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili. La durata richiesta è la stessa richiesta per l'usucapione della proprietà. I tempi, quindi, per fare. Non per fare, i tempi stavo bestemmiando, scusate, ma penso che non lo farò. I tempi necessari per l'erogazione sono per i beni immobili 20 anni, per beni immobili acquistati in buona fede da chi non è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto 10 anni dalla data della trascrizione. Per le universalità di beni mobili 20 anni. Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona fede, 10 anni. Per i beni acquistati senza titolo idoneo e posseduti in mala fede, 20 anni. Per beni mobili iscritti in pubblici registri, acquistati in buona fede da chi non è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo, eccetera, eccetera, 3 anni dalla data della trascrizione. Per beni mobili, quando manca almeno uno della 10 anni. L'articolo 1159 bis ha introdotto norme speciali per i piccoli fondi rustici e i fondi rustici montani con fabbricati annessi. L'usucapione ventennale si compie in 15 anni e quella decennale in 5 anni. Usucapione speciale. Processo. Possesso, dicono qui, vale titolo. Thank you. la manus o convenzio in manus era presso gli antichi romani il potere che l'uomo aveva sulla donna, sia che questa fosse sposata o meno. Il titolare era il marito, se su iuris, o il pater di lui. In particolari casi poteva essere titolare anche un estraneo, che era un franchising in sostanza. I modi di acquisto della manus erano tre: la conferratio, la coemptio e l'usus. La conferratio, antica cerimonia tipica dell'ambiente patrizio in onore di Giove Farreo, dio protettore dell'agricoltura. L'uomo e la donna spezzavano il panis farrus, pane di farro, e lo consumavano insieme. Erano presenti alla cerimonia 10 testimoni e i flamen dialis, probabilmente dei malati di reni, non so bene. La coemptio rappresentava la vendita della figlia da parte del pater familias al futuro marito o al pater di lui, ove questo non fosse su iuris. Non è altro che l'applicazione dell'emancipatio, dove però l'uomo con particolare differenza dell'emancipatio comune, infatti non diventava compratore della donna, ma l'acquistava in qualità di marito. E chissà qual era la differenza. Oppure il terzo modo, l'usus, la donna sposata senza una conferenza o una coemptio, oppure eseguite male, in modo non valido, dopo un anno di convivenza con il marito cadeva sotto la sua manus o longa manus, se era un farfallone, diciamo, per effetto dell'articolo usus, ma solo se la donna viveva col marito senza interruzioni, usurpatio trinocti, cioè... assenza prolungata di almeno 3 giorni della donna da casa del marito, altrimenti il periodo di un anno andava riconteggiato da capo. E a quanto pare, diciamo, i vecchi vizi tornano un po' con i nuovi protagonisti, visto che il nostro caro Presidente del Consiglio ha dichiarato che gli verrebbe voglia di vendere tutto ed espatriare. Ora sta cercando un posto dove non ci sia l'estradizione, probabilmente, forse ancora per questo non l'ha fatto. Comunque, torniamo al nostro discorso, l'Amancipazio. Nel diritto romano, l'Amancipazio era un negozio solenne di origini molto antiche, traslativo dello Ius Quiritium, il nucleo più antico del diritto romano, e poi dello Ius Civile, su persone o cose che, proprio in quanto scambiabili necessariamente tramite questo atto, venivano definiti res mancipi. La capacità di porre in essere un mancipazio dapprima apparteneva ai soli cittadini romani sui iuris, gli unici a esercitare lo ius commerci, presto riconosciuto anche ai latini. Originariamente si svolgeva nel modo seguente: alla presenza di cinque testimoni, tutti cittadini romani e puberi, e un pesatore pubblico, l'acquirente mancipazio accipiens, tenendo tra le mani un pezzo di bronzo, l'aes rude, ma dapprima si usava il rame, da notare, che in epoca premonetaria si utilizzava come corrispettivo, dichiarava solennemente che la cosa oggetto dell'emancipazio gli apparteneva. Chi era contrario veniva battuto ripetutamente con il suddetto oggetto di bronzo, probabilmente. Successivamente posava sulla bilancia del pesatore il bronzo, che veniva pesato e consegnato all'alienante, scusate, Mancipio d'Aris, quale prezzo dello scambio. La struttura dell'Amancipazio era quella di un atto nella quale si realizzava lo scambio immediato di cosa contro un corrispettivo in metallo, Aes, che il Mancipio Accipiens pagava al Mancipio Dans. E sono pazzi questi romani.